gloria, o senza infamia o senza gloria, non rimarrà nella memoria, o senza infamia o senza gloria. Storia, ognuno ha la propria storia, qualcuno ha buona memoria, con qualche infamia e poca gloria. Voglia di quante cose abbiamo voglia, del nostro orgoglio ci si spoglia, per ritrovarci su una soglia. Gloria, è meglio stare senza gloria, anche la voglia non fa storia, ma rimarrà nella memoria. Foglia, appena nata non ha storia, la pianta non gli dà memoria, ma quando gialla lei si spoglia.